ho anche allegato una comunicazione, una dichiarazione in cui spiego perché la CGIL ritiene che sia un'intesa che non salvaguarda gli spazi, la funzione e il ruolo della contrattazione e i diritti dei lavoratori, sia per quanto riguarda il primo livello di contrattazione, sia per quanto riguarda il secondo livello. Ho anche fatto presente che su questa intesa abbiamo discusso con i lavoratori, raccolto un'opinione molto contraria della maggioranza dei lavoratori che ha aderito al nostro referendum. Purtroppo non ci è stato possibile di farlo unitariamente, quindi manca a questo accordo una vera verifica democratica fatta insieme tra CGIL e CISL, come avvenne invece nel precedente accordo, e questo è un punto di debolezza, perché accordi che riguardano le regole dello stare insieme e del contrattare debbono essere validati da tutte le organizzazioni sindacali e in ogni caso confermati dal voto dei lavoratori. In questo caso non si è voluto e questo non depone positivamente per la gestione di un accordo che senza la più grande organizzazione e senza un voto dei lavoratori finirà per avere delle conseguenze, cioè l'assenza di regole nella contrattazione, sia nazionale sia di secondo livello. Tanto più non si capisce in una fase di crisi come questa, dove sarebbe stato necessario non comprimere la contrattazione, ma renderla al servizio dei problemi che i lavoratori e la crisi hanno. E in più credo sia stato un errore dividere il sindacato, come per responsabilità del governo, ma non solo, è avvenuto.